In genere gli alberi sono molto utili nel contrastare le ondate di calore in città, lo fanno in modo molto localizzato, possono portare a riduzioni delle temperature massime di 3, 4, anche 5 gradi, però entro una distanza molto limitata dal punto in cui sono messi a dimora, diciamo 100, 150 metri se parliamo di un piccolo parco urbano, 10, 20 metri se parliamo di una o due piante. Quindi è necessario che effettivamente siano distribuiti in modo capillare lì dove servono nella città. Una cosa riguarda anche, immagino, come dire, il contesto, cioè se sono in un parco dove comunque sotto c'è l'erba oppure c'è un pavè, un cemento, fa la differenza? Esatto, e qui veniamo al meccanismo. Il modo in cui gli alberi rinfrescano non è tanto l'ombra, ma è l'evaporazione dell'acqua. Quindi gli alberi pescano acqua da un terreno che evidentemente la deve contenere, quindi deve essere un terreno permeabile, un suolo non cementificato, e hanno acqua a disposizione dopo averla usata e fanno evaporare dalle foglie. Questo passaggio, questa evaporazione dissipa calore ed è il principale artefice del rinfrescamento, e quindi un parco, un albero inserito in un terreno permeabile con dell'erba intorno che anche lei traspira è certamente molto più efficace di un albero invaso che non potrà andare a pescare molta acqua se non quella che ci sta nel vaso, che comunque è molto minore rispetto a un suolo più naturale. Proprio su questo allora le faccio una domanda che è quasi una scommessa sulla sopravvivenza di queste piante, di questi alberi, perché abbiamo visto che già a causa della crisi climatica in città anche le piantumazioni in terra fanno fatica a sopravvivere al primo anno della messa a dimora. Sopravviveranno 3 mesi d'estate? Qualora anche lo facessero, quindi spendendo ulteriori risorse per irrigarli e mantenerli bagnati anche durante l'ondata di calore e siccità, il problema si ripropone l'anno dopo. Il trapianto di un albero già cresciuto da vaso a terra conduce quasi sempre alla morte della pianta. Lo stress per le radici è troppo forte. Infatti nelle città quando vediamo che si piantano alberi normalmente li vediamo piccoli, non per un fatto di risparmio, ma proprio perché è l'unica fase della vita della pianta in cui questa crisi da trapianto può essere superata con relativo successo. Quando si parla di riforestazione cittadina, ecco, sarebbe meglio farlo in terreni desigillati. Sicuramente sì, potendo scegliere sì, questa è una soluzione che magari può anche funzionare per quanto è dispendiosa nel brevissimo termine per questi mesi, ma nel lungo termine, a partire dall'anno prossimo, è facile che di nuovo non porti quasi nessun beneficio. E quindi dobbiamo un po' mettere sulla bilancia questi due fattori. Purtroppo più la crisi climatica procede e più le soluzioni a breve termine mostrano i loro limiti. È vero che dobbiamo aspettare un po' di più, ma se investiamo invece in soluzioni a lungo termine, quindi desigillando, depavimentando, togliendo il cemento, l'asfalto che rimbalzano addosso a tutto il calore, è facile che queste soluzioni durano di più e i nostri soldi siano meglio spesi.